Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Quando uno parla di tartufo vengono subito in mente paesi come Alba o Norcia, però il tartufo esiste anche nel Veneto. Ce lo racconta Marino Uderzo, appunto cavatore di tartufo nella nostra regione. E esiste proprio il tartufo anche nel Veneto? Sì, esiste proprio il tartufo nel Veneto, specialmente nella pedemontana trevigiana e bellunese. Abbiamo due tipi di tartufo, abbiamo un uncinato invernale e lo scorzone estivo. Questi tipi di tartufi si possono reperire su zone arcillose o calcarei, sotto le piante di nocciolo, di faggio, di carpino, di rovere. E il tartufo estivo si trova da maggio ad ottobre e il tartufo invernale, sarebbe l'uncinato invernale, va da mese di ottobre a dicembre. Ecco, in quali zone del Veneto sono un po' più vocate per il tartufo? Guardi, tutta la pedemontana trevigiana e bellunese è buona. Dopo le altre zone si parte dal veronese ed è tutto buono. Cioè, per dire, tutto il Veneto è buono per il tartufo, specialmente il tipo scorzone estivo, l'uncinato invernale, lo raccolgo in mezza collina, nelle prealpi sia bellunesi che trevigiane. Se noi andiamo in cerca del tartufo un po' più pregiato, dobbiamo scendere giù in pianura verso le zone di Padova, Rovigo. Dopo bisogna vedere anche i punti, i posti dove trovarlo, perché non tutti sanno dove si può reperire questo tubero. Ecco, beh, sicuramente i posti precisi non andiamo a chiederli, come non si chiedono ai cercatori di funghi, perché mi viene in mente di chiedere proprio la differenza tra un tartufo ed un fungo. Beh, il fungo cresce sopra il suolo e il tartufo è un fungo che cresce sotto il suolo, è in ipoigeo, cioè sotto il suolo si trova il tartufo. Per trovare il tartufo bisogna avere un cane, perché altri mezzi non ci sono, perché tutti quanti gli altri resti di mezzi sono vietati. Bisogna addestrare un cane e andare a tartufo. Per fare queste cose qua serve un attimino di insegnamento da parte di qualcun altro. Io ho avuto la possibilità di conoscere qualcuno che andava a tartufi e mi ha indicato un attimino, mi ha dato delle dritte di andare a questo tipo di tubero. Ho provato più volte in vari posti, mi ha accennato presso a poco come si può, dove cresce, dove si sviluppa questo tipo di tubero, e mi ha spiegato un attimino l'habitat che può essere, che è una zona calcarea, argillosa, le piante, mi ha insegnato un po' di robette, l'ho messo in atto e ho iniziato a trovare qualcosetta. All'inizio ho trovato pochettino, poi 2 anni fa ho trovato un bel numero e mi sto divertendo abbastanza, perché concorrenti ne ho ancora pochi per il momento. In effetti è raro trovare un cercatore di funghi, un cavatore di funghi nel Veneto, e poi uno che lo fa per passione, certamente non per motivi economici. Ma ci fermiamo per qualche minuto, torniamo su questo argomento tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind? Yeah. Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind? Yeah. Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. To be high, better just go. Yeah. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. 'Cause I can't do it anymore. Yeah. Give me that kiss, sleep love. Give me that kiss, sleep love. parties on a late night getting old, yeah. I've been there, done that, supposed to be high, but it's just gone. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. If your love is incognito, a better time, that's all that I ask. You know you leave me out too long and I go bad. Verbatim, I'm hot as a volcano. You want a taste, you better be bringing more to the table. Speaking of, I want your love, sweetest, sweet and oh, come on. Come on. Come on. Set me on fire. You gotta be the man of my desire. So I'm yearning, butterflies returning. Together, usual, get deep as a swimming pool, yeah, yeah. Bottled up with all these emotions. You know I gotta pour this out to someone. My sweet love. Oh, give me that kiss. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di tartufi, in particolar modo di tartufi i veneti. Mi scuso se prima ho detto Marino Uderzo, il nostro ospite, cavatore di funghi, invece di dire di tartufi, perché appunto di tartufi stiamo parlando. E se qualcuno volesse intraprendere questo, diciamo, professione, questo hobby, so che c'è bisogno di una licenza, non è proprio che si possa partire e andare a cercare tartufi. Effettivamente serve un'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto, previo esame lascia un'autorizzazione con validità di 5 anni e rinnovabile nel tempo. Quando si ha l'autorizzazione si è liberi di andare tutto a Veneto, previo bastano andare in zone dove è in atto colture di questo tipo di tubero o zone di maniali, se no si va dappertutto. Basta che non ci siano regolamenti interni di qualche comune che vieta la raccolta o si fa un permesso particolare. Ecco, il tartufo è noto non solo perché è buono, ma anche per il suo prezzo. È raro, ma anche un prezzo di conseguenza. L'anno scorso è stata un'annata un po' particolare, i prezzi saranno un po' impennati. Cos'è che giustifica il prezzo del tartufo? La qualità che si trova nei vari anni o la quantità? E la quantità prima di tutto, e poi se c'è carenza di questo tubero c'è perché manca l'habitat, non è idoneo per questo tipo di fungo, diciamo, perché serve un habitat particolare, serve l'umidità, serve tutto un insieme di cose perché cresca il tartufo. Meno ce n'è, più il prezzo aumenta. L'anno scorso l'ho visto in qualche parte che lo vendevano dai 400 ai 500 euro il chilo. L'anno prima lo vendevano a 100 euro il chilo. Io non l'ho mai venduto perché effettivamente lo faccio per passione, lo do agli amici e lo porto a conoscenza che abbiamo anche noi un prodotto di nicchia nel nostro piccolo Veneto, che possiamo fare concorrenza a qualche altra regione. In effetti è un prodotto di qualità anche dal punto di vista del gusto? Sì, è molto saporito, gustoso e delicato il nostro tartufo nero, e parlo perché io sono specializzato a andare a tartufo nero. E il bianco non lo posso neanche paragonare perché è tutta un'altra cosa. Questi tartufi, sia il bianco sia il nero, come le piace utilizzarli? Possiamo dare qualche consiglio di utilizzo agli ascoltatori? Ma guardi, su tutti i prodotti come la zucca, un abbinamento come risotto con la zucca, oppure gnocchi con lo shek, che è buonissimo, shek, tartufo e salsiccia, viene fuori un piatto favoloso, e sui crostini. con la rubiola e il tartufo. Ci sono varie pietanze che si possono abbinare al tartufo, tutte le cose dolci va abbinato, oppure anche mangiare i poveri, perché basta anche due uova dure, due uova sode, si grattugia un po' il tartufo, arricchisce già il piatto. In effetti il prezzo sembra elevato, ma con un netto di tartufo 15-20 euro si va avanti per un po'. Non dico un paese, ma effettivamente più, perché il tartufo va solo grattugiato, non va mangiato come mangiare una mela. Grazie di questi consigli e anche di questa informazione, ed ora in poi guarderemo anche nei mercati, sui banchi dei mercati, se troviamo il tartufo veneto. E non c'è solamente il tartufo tra i prodotti che ci si aspetta di ritrovare nella nostra regione. In particolar modo i cambiamenti climatici stanno portando delle novità. Ad esempio abbiamo parlato di vigneti in altura, del grano duro che è arrivato in una pianura padana, ma vi sono sempre più coltivazioni, ad esempio di sorgo, di coriandolo, di cicerchia e amaranto. È questo quanto mettono in campo gli agricoltori veneti, rivela Coldiretti, per rispondere ai problemi di scarsità d'acqua dovuti a prolungati periodi di siccità. Il mais, il frumento e la soia rimangono i prodotti più coltivati nella nostra regione, ma con l'approssimarsi delle semine, con un inverno particolarmente asciutto che non ha favorito le scorte naturali, gli imprenditori agricoli corrono ai ripari. C'è chi investe in impianti irrigui altamente tecnologici per ridurre lo spreco d'acqua, ma c'è anche chi sceglie sempre più spesso varietà alternative a quelle tradizionali. Ad esempio, appunto, il sorgo, che viene piantato in molte aree perché risulta particolarmente resistente ai deficit idrici. Ma c'è anche il coriandolo da seme che sta trovando spazio in quanto non necessita di irrigazione o di particolare disinfestazione e nemmeno di trattamenti fitosanitari. Inoltre, una curiosità, sembra che il suo odore risulti sgradevole all'olfatto della fauna selvatica come i cinghiali e gli ungulati, che se ne disinteresserebbero con gran sollievo dei coltivatori. Tra le nuove produzioni si può citare anche la cicerchia, un antico legume che si trova a suo agio in appezzamenti ciottolosi, o l'amaranto, uno pseudo cereale che non contiene glutine e che non ama irrigazioni frequenti nei ristagni d'acqua. Cambiamo argomento, andiamo verso la conclusione. Si intitola Cuori di formaggio e ha le caratteristiche di un giallo a tutto tondo, un nuovo percorso di educazione alimentare realizzato dal Consorzio di tutela del formaggio Asiago, con la collaborazione di Fondazione AIDA. Questa iniziativa innovativa è stata pensata per far conoscere le qualità e le specificità nutritive del formaggio, in particolar modo il formaggio appunto Asiago DOP, agli studenti di scuole primarie e secondarie di primo livello di molte province del nord-est, si va dall'Emilia Romagna alla Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, ovviamente il Veneto. Il giallo è scritto e diretto da Pino Costalunga ed è in forma di laboratorio teatrale e sarà portato in scena in 54 appuntamenti dal 22 gennaio fino a fine maggio da Gioele Peccenini ed Elisabetta Borille. E il lavoro è accompagnato da un librettino didattico illustrato da Timoteo Frammartino. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento al Quadrifoglio alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.